L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parleremo di due diversi argomenti, sperando un po' di accontentare tutti. Inizieremo con la moda sostenibile, per chiudere nella seconda parte con le biciclette che saranno in mostra, ma soprattutto la discussione che gira intorno alle biciclette sarà al Cosmo Bike Mobility di Verona la settimana prossima. Ma come dicevamo, iniziamo prima dalla moda sostenibile, quindi vi presento i nostri ospiti, che sono Silvia Stella Osella, tra le fondatrici del marchio Ilut, che è qui con noi in studio. Benvenuta. Grazie. E al telefono Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. Bentornato in questo caso. Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, io direi che per fare il quadro, diciamo, un po' della situazione, chiediamo a Silvia subito di raccontarci un po' la storia di questo marchio Ilut, che ci ha portato poi a costruire questa puntata. Silvia, come, chi siete, quando siete nate, perché siete tutte donne, no? Se non sì, sbaglio, esatto. E cosa, qual è la vostra ambizione? Allora, Ilut è nato un paio d'anni fa da una ragazza finlandese che si chiama Elina. Siamo appunto tre ragazze sotto i 30 anni da varie parti d'Europa. Elina ha registrato un video su YouTube in cui praticamente parlava del suo sogno, ovvero quello di mettere in piedi un marchio d'abbigliamento sostenibile. Le problematiche fino a riscontrate erano quelle che in Europa ancora non esiste un marchio che può mettere insieme design e sostenibilità in maniera coerente e accessibile. E allora Elina ha deciso di realizzarlo, di fare questa cosa da zero e di cercare persone sul web che fossero interessate a raccontarlo con lei. E quindi voi siete nate così, questo esatto. Gruppo nasce così, nasce sul web. Tu hai visto questo video, l'altra ragazza che c'è è la terza? La terza ragazza, sì. Io mi occupo di textile design, ho visto questo video e ho subito deciso di scriverle, di mettermi in contatto con lei per dar vita insieme a questo progetto. Più avanti abbiamo trovato Vijay, questa ragazza con base a Londra, che invece si occupa della parte dei modelli, realizzazione dei capi. Quindi insomma avete attraversato l'Europa grazie esatto. a internet e messo insieme tutte le vostre competenze, avete cominciato a ragionare su come realizzare queste idee che voi avevate. Sì, perché appunto è molto complesso, ci sono molte cose da tenere in considerazione, tante cose da far quadrare. Purtroppo noi pensavamo che sarebbe stato abbastanza facile ormai trovare dei fornitori adatti alle nostre richieste, persone che avessero investito sulla sostenibilità. Invece purtroppo ci siamo resi conto del contrario, che tanta gente ancora non abbraccia questa visione perché ha paura che ancora non sia abbastanza capita. Quando invece la gente che ci segue sui social sta in realtà dimostrando il contrario, la gente sta cominciando in realtà a chiedersi cosa si mette addosso, come è stato fatto, dove, che agenti chimici sono presenti sui tessuti che si indossano tutti i giorni. Così come ci interroghiamo tanto su cosa mangiamo, su come ci spostiamo, su che impatto queste scelte hanno sull'ambiente, così la gente sta anche cercando di capire cosa indossa. Per voi qual è la scaletta delle priorità? Quando chiedete, no? Allora, per noi è importante che voi, non so, produciate in questo modo, in questo paese. Cosa chiedete? Allora, la vostra idea di sostenibilità, diciamo, no? Allora, una cosa molto importante che abbiamo imparato con l'incontro con Marina Spadafora di Fashion Revolution è il fatto che per cominciare bisogna imparare a non essere troppo rigidi, nel senso, se fossimo veramente state attaccate a ogni punto che ci eravamo prefissate sarebbe stato impossibile cominciare, quindi da qualche parte bisogna cominciare. E quindi la nostra priorità... avete ceduto su qualcosa, avete messo certo, davanti bisogna, cos'altro? Bisogna anche arrivare a un minimo di compromesso, però noi comunque abbiamo cercato di essere molto ferme su alcuni punti. Per esempio vogliamo che tutta la produzione sia tracciabile, praticamente dal seme della fibra che è dove viene piantata e coltivata al capo finito, quindi operiamo in un concetto di totale trasparenza in cui il consumatore può vedere attraverso i nostri canali social tutte le fasi della produzione dei capi e rendersi anche così conto di quanto lavoro c'è dietro alla produzione di un capo e del fatto che se trova in delle grosse catene una t-shirt a 5 euro forse c'è qualcosa che non va. Quindi appunto un concetto di trasparenza, un concetto di made in Europe, cerchiamo di applicare diciamo ai vestiti il concetto di chilometro zero che per ora esiste nel cibo. Cerchiamo appunto di avere un impatto il più basso possibile attraverso tutte le fasi della nostra produzione Sì, e di essere costantemente, come dire, aperte a domande dei nostri futuri consumatori e a metterci sempre in discussione, nel senso stiamo imparando tantissimo da questo progetto, da questo percorso e lo vediamo così, come una cosa in crescita. Allora, io quando ho visto, possiamo tranquillamente confessarlo, questo progetto che mi era stato mandato, ho pensato immediatamente a Greenpeace e quindi Giuseppe Ungherese le ho mandate da voi, perché un po' da tempo ormai, quanti anni ormai fate questa campagna? Sì, noi abbiamo iniziato nel 2011 con la campagna Detox, che nasce fondamentalmente per risolvere un grande problema a cui il settore della moda e della produzione di abbigliamento in generale contribuisce in modo massiccio, ovvero quello della immissione nell'ambiente di numerose sostanze chimiche tossiche che finiscono nell'acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo e finiscono a contatto con la nostra pelle quando indossiamo i vestiti. Forse non tutti sanno che il settore della moda è uno dei settori più inquinanti al mondo, il secondo, secondo stando ai rapporti recenti della Banca Mondiale. E noi con la nostra campagna cerchiamo di risolvere questo problema e promuovere l'adozione di sostanze chimiche che non impattino in modo così grave con la salute. Quindi voi siete focalizzati sull'aspetto... No, chimica, insomma, della... Sì, esatto, proprio perché questo settore fa un massiccio uso delle sostanze chimiche tossiche e noi ne chiediamo la completa eliminazione, e proprio considerando anche l'impatto di questo settore sulle risorse idriche del pianeta, perché l'acqua poi è una risorsa che noi diamo molto spesso per scontata e siamo abituati ad averla nelle nostre case, l'acqua potabile, ma non è qualcosa che va tutelato e va preservato per noi e per le future generazioni. Con la nostra campagna vogliamo proprio tutelare l'oro blu del nostro pianeta e quindi promuoviamo l'adozione di pratiche che impattino meno sulle risorse idriche del pianeta. Già ad oggi, a pochi anni, a poco più di 5 anni dal lancio della nostra campagna, il 15% del settore moda e della produzione di abbigliamento in generale a livelli di fatturato mondiale ha già sottoscritto i nostri standard, quindi un futuro privo di sostanze tossiche è già possibile, è già alla portata del mercato, basta solo volerlo fare. In Italia abbiamo numerose esperienze e esempi positivi di tantissime aziende che hanno sottoscritto l'impegno Detox, non ultimo 27 aziende del distretto di Prato che si di cui parlavamo, certo. Nei mesi scorsi, e quindi la via è tracciata, tutto il settore può seguirla e ha tutti i mezzi per poter tutelare l'ambiente e le risorse idriche del pianeta e la salute e la sicurezza dei consumatori. C'è qualcosa a cui si, diciamo, debba rinunciare nel momento in cui si rinuncia alla chimica nei processi di produzione, o si può tutto sostituire con altre tecniche? Ma in realtà noi chiediamo l'eliminazione di oltre 400 sostanze chimiche che hanno un diverso grado di pericolosità e tossicità per l'ambiente e per l'uomo, e per tutte queste sostanze esistono delle alternative che non impattano sull'uomo e sul nostro pianeta, per cui le soluzioni ci sono già alla portata del mercato e si tratta molto più spesso di rompere un muro dettato da abitudine ad utilizzare determinate pratiche, ma non si tratta di problemi legati a costi. Con il distretto di Prato parliamo di piccole realtà industriali che sono quelle tipiche del nostro tessuto produttivo e che costituite anche da pochi dipendenti, non sono certo multinazionali della produzione di abbigliamento, per cui le soluzioni ci sono e sono già praticabili. Alla portata del mercato, praticabili, certo. Quindi quello che trova Silvia e quello che trovano le sue colleghe nel portare avanti il loro progetto è un ostacolo di natura, diciamo, culturale, non che non si possa fare quello che loro vogliono fare, è solo dover rompere quel muro. Esatto, l'ostacolo più grosso è proprio questo, però la nostra campagna dimostra che ci sono tante realtà che già seguono i criteri Detox e quindi si possono trovare delle soluzioni, sicuramente. Allora Silvia, si può fare? Sì, questo, assolutamente. Ma voi a che punto siete in questo momento? Siamo partite quest'estate con un viaggio di quasi 7.000 chilometri per documentare tutti i processi dietro i nostri capi, come dicevo prima, cercando di far capire alla gente tutto il lavoro che c'è dietro alla nostra produzione, cosa significa agire in maniera sostenibile, a basso impatto ambientale ed etica. Abbiamo risposto a tutte le domande di tantissima gente molto interessata al progetto tramite i nostri canali Facebook e Instagram, e adesso abbiamo appena lanciato la nostra campagna su Indiegogo, dove la gente può preordinare i nostri capi in crowdfunding, sostenendo appunto la nostra prima vera produzione, perché questo stiamo allo stadio del campionario. Abbiamo fatto un piccolo campionario, uno shooting, fatto vedere appunto tutto il lavoro che c'è dietro, e preordinando i nostri capi non solo appunto si comincia a cambiare un po' le cose, certo, sostenendo... con i numeri si possono cambiare, esatto, anche... ma nella nostra idea anche lanciare un forte messaggio ai grandi marchi, alle grandi catene, sul fatto che sono tante le persone che hanno voglia di cambiare, di sapere cosa c'è dietro ai loro vestiti. Benissimo, allora noi abbiamo concluso il tempo che avevamo a nostra disposizione, magari quando termina questa parte della campagna ci torni a dire che cosa, come è andata, come procedono le cose, sì. Se avete spezzato appunto qualcuna di queste barriere. Io ringrazio anche Giuseppe Ungherese, che è stato con noi fino adesso, ricordo responsabile campagna inquinamento di Greenpeace Italia, a risentirci, grazie. E a tutti gli ascoltatori do appuntamento tra pochissimo, senza ricordarvi Silvia Stella Osella, il marchio di cui abbiamo parlato è Ilut, ci troviamo tra pochissimo con le biciclette. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. L'altro pianeta. Di nuovo un buon pomeriggio da Laura Bettini. Dopo aver parlato di abiti, di tessuti, parliamo adesso di biciclette. Come promesso, abbiamo in collegamento con noi Paolo Pinzuti, che è project manager di Cosmo Bike Mobility, che si apre a Verona la settimana prossima, dal 14 al 16 di settembre, e responsabile sviluppo di Bikenomist. Ben ritrovato. Buongiorno, ciao. Allora, ti chiedo per curiosità cosa fa Bikenomist, perché Cosmo Bike Mobility tra poco ne parliamo, l'altro l'aspetto della tua vita lavorativa, di che cosa ti occupi? Io sono responsabile sviluppo appunto di questa azienda di cui sono il fondatore, che si chiama Bikenomist, che è una società specializzata in tutto quanto riguarda attività legate alla bicicletta. Quindi noi facciamo attività di progettazione, realizzazione, promozione e comunicazione di attività legate appunto al mondo della bicicletta, che possono riguardare il cicloturismo, possono riguardare il ciclismo urbano, possono riguardare la riqualificazione di luoghi pubblici attraverso attività di pedonalizzazione, costruzione di piste ciclabili, e soprattutto facciamo tanta advocacy nei confronti della politica per fare in modo di avere un paese maggiormente a misura di bicicletta. E ora c'è chiarissimo perché ti stai occupando di Cosmo Bike Mobility. È una grande manifestazione, dura appunto 3 giorni addirittura, si apre la prossima settimana a Verona, e quest'anno, visto il tema, ce ne sono tanti ovviamente, forse quello portante è quello dei bambini. Sì, esatto, il tema importante che abbiamo deciso di dare per quest'anno è la città dei bambini, perché ci siamo resi conto che insomma l'Italia soffre, noi sappiamo benissimo che l'Italia soffre di una grave mancanza di sviluppo nei confronti dei temi, per esempio dell'uso della bicicletta, no? A tutti noi sarà capitato di fare vacanze in giro per l'Europa, di andare a visitare varie città, in particolare nel nord Europa, a vedere dei mondi in cui il traffico in qualche modo esiste in maniera solamente marginale, l'inquinamento è molto più basso, ma soprattutto ci sono delle situazioni in cui vediamo che i bambini sono in grado di muoversi in autonomia senza il costante pericolo di essere, insomma, di ritrovarsi in qualche situazione spiacevole in mezzo al traffico. Faccio un esempio: in Danimarca circa l'80% dei bambini si muove in autonomia e va a scuola senza l'ausilio dei genitori, quindi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. In Italia questa cifra è rappresentata solamente dall'8%, quindi solamente l'8% dei bambini si muove in autonomia. Questo significa, da un lato, che chiaramente i genitori sono sempre chiamati a organizzare qualunque spostamento dei propri figli, e quindi portali a scuola, portali a nuoto, portali a calcio, portali di qua, portali di là, sempre comunque in automobile, soprattutto perché c'è molta paura nei confronti del traffico, perché essendoci troppe macchine i genitori hanno paura a lasciare i propri figli che si muovano in autonomia, e quindi questa cosa porta ancora più traffico, eccetera, eccetera. Il problema è che chiaramente nel momento in cui neghiamo ai bambini la possibilità di utilizzare le strade, di fare esperienza sulla strada, come sarà capitato a tutti noi in infanzia, impediamo loro di avere delle di sviluppare delle conoscenze, delle competenze, un senso di anche autostima, che poi rischia di essere particolarmente complicato, portare a una crescita complicata e soprattutto alla creazione di persone adulte, magari che mancano di fiducia in se stesse, magari che hanno problemi di orientamento, eccetera, eccetera. Però c'è qualche, no, c'è qualche cosa che si sta muovendo, visto avrete Fano come, no, città ospite, città dei bambini, ma ho sentito poi negli ultimi mesi diverse cose muoversi, diverse esperienze che stanno crescendo. Sì, esatto. Allora, diciamo che la situazione è drammatica, ma sicuramente si può porre rimedio, nel senso che appunto esistono delle buone pratiche in giro per l'Europa, che basta solamente mutuarle, portarle nella nostra realtà per farle sviluppare. Ci sono infatti delle città anche in Italia che si stanno muovendo in questa direzione, da Fano a Reggio Emilia, col Back to School, insomma, sono diverse iniziative. E proprio per, come dire, cercare di risolvere la questione relativa al tema della mobilità, è nata in particolare un'iniziativa che presenteremo a Cosmo Bike Mobility, che è quello del Club delle Città Trenta e Lode. Che non è solo un voto all'università, forse non c'è neanche più, non lo so, comunque, si riferisce proprio alla velocità, no? Con la quale bisognerebbe percorrere certe strade da dedicare anche al transito delle biciclette. Sì, allora, è chiaramente appurato che una riduzione delle velocità in ambito urbano a 30 km all'ora garantisce un immutato livello di scorrevolezza del traffico. Se pensiamo che la velocità media nelle nostre strade è di 17 km all'ora, abbassare la velocità massima a 30 km all'ora da 50 non è un dramma da questo punto di vista, ma soprattutto poi permette una migliore fruizione della strada da parte di tutti gli utenti. E da qui nasce, appunto, da questa logica, nasce un'alleanza di nascerà un'alleanza di città di medie e piccole dimensioni, che rende conto di quanto il traffico impatta sulla gestione della vita della città quotidiana. Appunto, ha portato 20 ad oggi, 20 amministratori locali, quindi 20 assessori alla mobilità di queste città, che hanno deciso di mettersi insieme per cercare di fare fronte comune a un problema comune, che è quello dell'inquinamento del traffico, eccetera, eccetera. Ma in cosa si possono aiutare le città, magari anche distanti? Che tipo di fronte possono fare insieme? Ma allora, una cosa che adesso sarà l'obiettivo del prossimo anno è quello di realizzare una campagna di comunicazione rivolta in particolare alla riduzione della velocità davanti alle scuole. E questa è una prima attività, che sicuramente è un livello di comunicazione, è un livello più visibile. Poi c'è un livello meno visibile al cittadino, che però è altrettanto importante, che è quello di capire come hanno risolto determinate problematiche in altri comuni, no? Nel senso, a Lodi è in corso di creazione un Bike to School come servizio di welfare, quindi così come la scuola offre lo scuolabus per portare a scuola i bambini, allo stesso modo adesso offrirà un servizio di bicibus, quindi con delle persone stipendiate che la mattina andranno a prendere i bambini alle fermate di questo scuolabus e faranno questa processione verso la scuola, e quindi su un percorso sicuro e protetto, e d'altronde anche con delle persone che lavorano per garantire la sicurezza dei bambini. Queste sono buone pratiche che basta semplicemente copiare da una parte all'altra per portare a un miglioramento della situazione, solo che chiaramente se non ce le raccontiamo, se i comuni non se le raccontano tra di loro, diventa estremamente complicato poi avere un miglioramento. Quindi, insomma, qui ci mettiamo un po' tutti in gioco, le città possono presentarsi, unirsi, c'è una piattaforma internet, qualcosa già si può leggere, io l'ho fatto, Trenta e Lode, ricordiamo il titolo di questa iniziativa per chi volesse poi dopo andare a cercare già qualche informazione. Il resto invece si trova a Cosmo Bike Mobility, che lo ripetiamo, 14-16 di settembre a Verona. Abbiamo parlato molto di bambini, altri temi che saranno in esame? Ma altri temi che saranno in esame sono quelli che vanno poi tutto intorno alla città dei bambini, ecco, c'è il tema per esempio della movimentazione delle merci, no? Parla sempre di più di pedonalizzazione, di chiusura delle strade alle automobili, e si pone il problema di come portiamo le merci da una parte all'altra, quindi parleremo di ciclologistica con appunto la Federazione Europea che si occuperà di questi temi, alcuni operatori del settore che stanno creando occupazione semplicemente spostando, cambiando il modo in cui vengono spostate le merci. Parleremo ancora. Cioè le trasportano con biciclette, immagino adeguate al trasporto, insomma. Sì, che può andare per esempio dal trasporto chiaramente della singola busta, che è quella pratica da Pony Express, Pony, sì. Esatto, da Pony Express, fino per esempio anche ci sono dei casi molto interessanti di aziende agricole che trasportano a domicilio la spesa, no? utilizzando dei corrieri in bicicletta, quindi con delle biciclette opportunamente attrezzate che magari in alcuni casi sono anche a pedalata assistita e quindi permettono il servizio sia in montagna sia in pianura, anche su magari lunghe distanze, e magari anche di trasportare pesi particolarmente grandi, oggetti particolarmente grandi, senza fare troppa fatica, proprio perché c'è quell'ausilio della tecnologia che ci viene incontro. Senti, io vengo da una città dove le bici si usano molto e dove la gente, e questo però non riguarda il Cosmo Bike Mobility, ma chi vive usando la bicicletta, no? E sì. Spesso sono rubate. Sì, certo, questo problema è fondante e l'abbiamo individuato, per esempio, anche all'interno del nostro evento, dove ci sarà un panel dedicato ai cicloparcheggi. Stanno nascendo tutte queste esperienze molto interessanti in giro per l'Italia, che riguardano in particolare la città di Bari, Bologna in particolare, ma adesso anche Firenze, che è quello delle velostazioni. Questi luoghi che vengono situati in prossimità delle stazioni dei treni, no? Dove i pendolari possono tranquillamente lasciare la propria bicicletta durante il giorno, durante la notte, quando preferiscono, andarla a ritirare essendo certi che nessuno la ruberà, pagando poi pochi euro, pochi centesimi di euro per il ricovero. Ci sono esperienze internazionali che vanno in questa direzione, ci sono una serie di soluzioni tecniche che sono opportune per rendere particolarmente difficile la vita ai ladri, ci sono delle soluzioni infrastrutturali oppure la creazione appunto di questi luoghi che possono essere una soluzione. Bisogna semplicemente raccontarlo, bisogna semplicemente dire: guardate, è possibile, a Bologna funziona, a Bari funziona, facciamolo dappertutto e cerchiamo di trasformare le nostre città in luoghi maggiormente a misura di bicicletta. Allora, io ti ringrazio Paolo Pinzuti, ricordo che è Project Manager di Cosmo Bike Mobility a Verona. La settimana prossima, buon lavoro allora e a risentirci. Grazie mille, alla prossima. Ci fermiamo qui, appuntamento la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi un buon ascolto.